È il 19 settembre 1991, siamo sulle Alpi Venoste tra Italia e Austria. Una coppia di escursionisti tedeschi si imbatte però, durante una passeggiata, in qualcosa che non si aspettavano sicuramente di poter vedere con i loro occhi. Vedono un cadavere uscire dal ghiacciaio, siamo sul ghiacciaio del Similaun, e l'uomo è letteralmente conficcato nel ghiaccio. Esce fuori solo per un tratto del suo corpo, dalla cintola al capo. Spaventatissimi, i due tedeschi arrivano nel rifugio più vicino e assolutamente chiamano i soccorritori. Interviene la polizia, il soccorso alpino e anche dei curiosi, ma semplicemente non si riesce a estrarre l'uomo dal ghiacciaio. Passeranno 4 giorni. Durante quei 4 giorni molti si chiedono cosa ci faccia un uomo ridotto di fatto in quelle condizioni. Era letteralmente mummificato. I dottori che si occuperanno poi della ricerca, dopo l'avvenuta estrazione, troveranno la risposta. L'uomo non era un semplice turista, escursionista. Era infatti un uomo vissuto ben 5.000 anni fa. Era un uomo dell'età del rame. L'uomo verrà soprannominato Ozi, dal toponimo austriaco della località. E con lui aveva alcuni oggetti interessanti. Sicuramente il più interessante per noi oggi è un bastone di un legno particolare, che poteva essere utilizzato senza dubbio come arco. Quel bastone era fatto di tasso. Sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questo è In Sana Pianta. Benvenuti. A differenza di quelle che abbiamo visto le scorse volte, oggi parliamo di un albero. Quindi, a differenza del ricino e della bella donna, parliamo di una pianta molto più imponente. Il tasso, nome scientifico, Taxus baccata. Appunto, Ozi aveva un arco in legno di tasso. E la prima cosa interessante è proprio il fatto che il nome è Taxus baccata. Il genere Taxus deriva proprio dalla parola scitica, quindi un'antica lingua medio orientale dove poi sono arrivate il persiano e altre lingue oggi utilizzate. Taxa in scitico significava proprio arco, quindi il nome stesso Taxus è dovuto a questo importantissimo uso che veniva fatto del suo legno. Baccata in realtà, come poi vedremo, sta semplicemente a significare che il tasso, a differenza di molte altre conifere, porta delle bacche e non dei coni, quelle che tipicamente chiamiamo pigne. Il tasso appartiene con molta fantasia alla famiglia delle Taxacee. Le Taxacee, a differenza delle famiglie che abbiamo visto le volte scorse, quindi le Euphorbiaceae e le Solanacee, costituiscono una famiglia molto piccola, sono solo 28 le specie appartenenti alle Taxacee, di cui i più noti sono Cephalotaxus e Torreia, che in realtà la maggior parte delle persone non ha mai visto, mentre il tasso, più o meno tutti, prima o poi nella vita abbiamo visto un tasso, probabilmente senza saperlo, al parco, in un giardino, eccetera, magari in qualche foresta, se qualcuno è stato fortunato. Il tasso, allora, da dove arriva? Alessio, ci ricordiamo? E anche oggi le mie nozioni di botanica sono approfondite, ma lascerò spiegare a te. Prego. Allora, il tasso è originario del continente europeo, un po' tutti i paesi europei, parte dell'Africa nord-occidentale e, come possiamo anche dedurre dalla parola scitica che abbiamo ricordato all'inizio, anche da parte del Medio Oriente. Poi, chiaramente, come moltissime altre piante, è stato introdotto in un po' tutto il mondo da parte dell'uomo. Cresce comunque in climi temperati, in foreste umide, e è una conifera, poi vediamo bene che cosa significa, che ama i luoghi umidi e freschi con suoli calcarei e cresce molto bene anche all'ombra, quindi spesso si trova anche al di sotto di alberi più alti, perché appunto il tasso, essendo una conifera, porta i semi nudi. La caratteristica delle conifere è proprio che non portano i frutti come tutti ci immaginiamo essenzialmente il frutto, cioè con una polpa, ma i semi sono, se noi pensiamo alla tipica pigna con i pinoli, cioè tutta la struttura con all'interno dei suoi i semi che escono liberi, non c'è una polpa intorno. Poi mi direi, se trovo dei semi di tasso, se me li posso mangiare tranquillamente o meno. La caratteristica strana, curiosa quantomeno delle conifere, dei tassi, è che appunto il seme in realtà è all'interno di un arillo, cioè è una specie di bacca carnosa, bacca in modo improprio, carnosa, rossa, che racchiude il seme. E tutti poi, se ci facciamo caso, passeggiando in un parco o in un giardino, possiamo prima o poi vedere questa conifera che ha gli aghi, quindi potrebbe verosimilmente ricordare a qualcuno un pino, anche se la somiglianza è ben poca. però porta appunto queste bacche rosse, in alcuni casi anche gialle, poi vediamo perché. Comunque è un albero alto circa una ventina di metri e ha la caratteristica di essere molto molto longevo, che poi ha portato appunto a diversi risvolti culturali che poi sicuramente ne parleremo, sì. E come dire, è un albero molto bello, molto imponente ed espanso, ha queste foglie ad ago, quindi è una foglia, foglie molto scure, lucide, e una corteccia rossastra che si sfalda molto facilmente, è molto bello da vedere e ha delle caratteristiche ornamentali molto interessanti. Un'altra caratteristica particolare del tasso è che è dioico. Dioico significa che ci sono piante maschio e piante femmina, e solo le piante femmina portano i frutti. Ah, come giusto che sia. Bene, bene. Se quindi ci spostiamo dalla parte storica, oggi ho un bel viaggio da farti fare. Ci spostiamo nel nord della Francia e in una delle mie età preferite, nel Medioevo. Ci siamo detti che il tasso ha come nome il fatto di rappresentare appunto come parola l'arco, e anche in greco devo dirti che toxon significa appunto arco, freccia, quindi il cerchio si chiude in maniera abbastanza interessante. Dunque, l'approfondimento di cui volevo portarti oggi ci fa fare un viaggio indietro di qualche centinaio di anni, direi. Siamo all'inizio del 400, 1415, è in corso la guerra dei 100 anni, di cui sicuramente avrai sentito parlare. Di cui però mi serve una rinfrescata perché le mie conoscenze di storia sono un po'... Siamo pari come sempre. Dunque, è il 25 ottobre 1415, è il giorno di San Crispino. E un piccolo esercito inglese si trova con le spalle al muro. Deve attraversare una strada sulla quale si trova però qualcuno di molto più forte ad attenderlo. Cavalieri francesi arrabbiatissimi perché da giorni gli inglesi stanno saccheggiando le campagne che si trovano davanti e sono pronti appunto a dar battaglia. A guidare il piccolo gruppo di soldati inglesi c'è il 27enne, nonché re d'Inghilterra, Enrico V, reso celeberrimo sicuramente anche dall'opera omonima di Shakespeare. E sempre Shakespeare in quest'opera gli fa fare un fantastico discorso di cui poi andremo a parlare. Dunque, cosa ci faceva questo 27enne al nord della Francia? Bisogna capire che all'epoca le famiglie si consideravano molto importanti e anche i diritti dinastici si consideravano importantissimi. Dunque, questo giovanotto si riteneva degno proprietario di circa un terzo del territorio francese. Quindi dal suo punto di vista era andato a farsi una bella scampagnata con le spade alla mano per rivendicare ciò che gli apparteneva di diritto. Si era preparato nella fine dell'estate di quell'anno per la traversata. Aveva allestito circa 10.000 navi e portato, perdonate, 10.000 uomini e 1.500 navi, erano effettivamente un po' troppe, per attraversare la Manica. Portava con sé quindi circa 8.000 arcieri, uomini del popolo, però bravissimi a imbracciare un arco lungo, fatto, vedremo dopo di quale pianta, ma potrei già immaginare, e circa 2.000 uomini d'arme. Gli uomini d'arme è gente nobile, di ricca famiglia, che dalla nascita è abituata a impugnare le armi. E sono soldati, quindi, che fanno quello è la vita, sanno combattere, è la loro occupazione principale, e vivono dell'onore e della gloria derivante dal combattimento. Gli uomini d'arme sanno combattere sia a cavallo sia naturalmente appiedati, come vedremo tra poco. Sono cavalieri minacciosi, all'epoca un cavaliere, un uomo armato e tutto punto a cavallo è una vera e propria forza inarrestabile, a meno così si credeva così si credeva quel giorno della battaglia. Come vedremo, i cavalieri francesi saranno effettivamente fermati dalle frecce degli inglesi. Dunque, Enrico attraversa la Manica con le sue 1500 navi e riesce, come un D-Day di antelitteram, riesce a sbarcare senza troppe difficoltà. C'è un problema, c'è una città fortificata francese che gli blocca il passaggio e ci mette un mese per conquistarla, e dopo quel mese ha perso uomini, sia per malattia, sia feriti, sia effettivamente sono venuti a mancare, e risorse. E non può più fare tutto il bel viaggio che si era immaginato. Lui voleva scendere, pensate, fino a Parigi e poi fino a Bordeaux, quindi nel sud della Francia, e rivendicare tutto quello che era suo, riprendersi tutto quello che era suo. Effettivamente capisce che non è più cosa. L'unico percorso che gli viene in mente quindi è di ridurre il piano originale, anzi percorrere la costa fino a Calais. Sembra un buon piano. I suoi consiglieri gli dicono: guarda, facciamocelo via mare, che ci mettiamo meno tempo e sicuramente più sicuro. Ma il 27enne, tutto bello tronfio, è sicuro che saccheggiare le campagne e mettere a ferro e fuoco quelle che dovrebbero essere le sue terre sia qualcosa di molto più d'effetto, in poche parole. Così mette armi e bagagli nella sua bella fila di uomini e si incammina verso nord. La traversata però gli viene negata. Quando giunge infatti presso il fiume della Somme, trova dall'altra parte ad aspettarlo dei francesi arrabbiatissimi per tutto il danno che sta portando in quei territori e non può attraversare. Obbliga allora i suoi soldati a marce forzate e grazie a tutti i chilometri sulle spalle, o meglio sui piedi dei suoi soldati, riesce di fatto a trovare un attraversamento e a superare il fiume. Quando però arriva sulla strada per Calais ed è vicino al villaggio, all'epoca si chiamava di Agincourt, un villaggio fortificato, si rende conto che i francesi sono lì ad aspettarlo e non può sottrarsi alla battaglia. I suoi uomini sono molto stanchi, hanno marciato per giorni e hanno anche finito quasi del tutto il cibo. È rimasto un po' di vino, bisogna dire. Infatti, quando combattono, i soldati all'epoca di solito sono spesso ubriachi, perché forse è una delle poche forze che ti convince a impugnare un'arma e a combattere. Dunque, il suo piano però è semplice. È stato molto fortunato. Quella notte, la notte tra il 24 e il 25, ha piovuto abbondantemente e il campo arato di fronte a sé sembra un ottimo luogo per ingaggiare battaglia contro i cavalieri francesi. L'esercito francese che gli si oppone è almeno il doppio del suo e mentre lui può contare solo su 1000 uomini d'arme, quindi 1000 uomini ben armati con la corazza, i francesi ne hanno tra i 6 e gli 8000, quindi è qualcosa di estremamente pericoloso. Allora questo piano. Dato che il bosco si affaccia sulla strada da entrambi i lati, vuole sfruttare questo a suo vantaggio. Fa posizionare i suoi uomini d'arme alternati a squadroni di arcieri. Arcieri che hanno portato con sé dei pali di legno, e fa disporre quindi gli uomini in questo modo. Due blocchi di arcieri sui lati, lato destro e lato sinistro, molto numerosi, poi tre piccoli blocchetti, chiamiamoli così per capirci, di uomini d'armi alternati con arcieri, arcieri inglesi appunto, e si mette proprio davanti alle forze francesi che anche loro si schierano per la battaglia. I francesi non hanno nessuna voglia di essere i primi a cominciare l'attacco. Sanno che o gli inglesi devono arrivare sotto per appunto ingaggiare, oppure se ne devono andare, quindi hanno tutti i motivi di aspettare lì. L'unico modo che Enrico V ha di far iniziare uno scontro è quello di appunto di provocare gli avversari. Prima della battaglia i preparativi sono non solo materiali ma anche spirituali. Si dice che Enrico V abbia partecipato a ben 3 messe, una dopo l'altra. Molti uomini si siano confessati e alcuni addirittura abbiano messo in bocca un pochino di terra del luogo, spiritualmente ad accettare la morte e ad accettare che quel luogo sarebbe potuto essere il loro ultimo luogo di battaglia, quindi il luogo della loro sepoltura. E oltre a questo, abbiamo detto, ci sono andati giù pesanti col vino e sono pronti appunto a menare le mani. I francesi quindi sono loro che attendono e si scambiano tantissimi insulti da una parte all'altra. Naturalmente si capivano abbastanza bene perché bastava fare gesti inequivocabilmente volgari per prendere per i fondelli, diciamo, l'avversario. Ma ciò che fa iniziare lo scontro è il piano che Enrico ha pensato, quello appunto di iniziare a bersagliare i francesi con le sue frecce. Gli arcieri inglesi infatti sono armati di archi lunghi, archi che possono colpire un bersaglio a una distanza massima di 260 metri. Queste frecce sono lunghe circa un metro e sono progettate per perforare in un colpo diretto blocchi di quercia di circa 2 cm di spessore e quindi possono perforare anche le armature di acciaio utilizzate all'epoca. Naturalmente il tiro doveva essere diretto e a distanza ravvicinata. Se invece il tiro fosse stato a parabola e a una distanza eccessiva, oltre a un effetto psicologico, non poteva portare chissà quale danno, ma questo ovviamente lo sapeva perfettamente. Iniziamo la battaglia, sono le prime luci dell'alba e gli inglesi iniziano a scagliare frecce sulle forze francesi. I cavalieri provocati si preparano per la carica. Ai lati del schieramento francese, i nobili a cavallo iniziano il loro attacco e puntano direttamente sugli arcieri, mentre gli uomini d'arme francesi, divisi in due schiere, in due divisioni le chiameremo, iniziano con la prima divisione ad attaccare i loro omologhi inglesi. le frecce iniziano a cadere. Immaginate la battaglia, che appunto quanto dovessero essere agitati questi uomini da una parte all'altra, sebbene fossero preparati da tutta la vita a combattere in questo modo. Le frecce cadono a parabola, infatti la distanza è eccessiva per un colpo diretto. Molti cavalli però vengono colpiti e cadono al suolo. Altri imbizzarriti fanno cadere i loro cavalieri, ma la carica francese va avanti. C'è un punto però che i francesi non hanno considerato. Gli inglesi, abbiamo detto, che portavano con sé dei pali. Fissavano questi pali nel terreno ed erano pronti per accogliere i cavalieri. All'ultimo momento gli arcieri inglesi si fanno indietro e mostrano ai cavalli nemici la loro sfilza di pali inseriti nel terreno. Ma è troppo tardi, i cavalieri non riescono a governare i loro cavalli, molti finiscono infilzati sui pali, altri invece cadono al suolo, altri cavalli invece devono fare rotta indietro, andando quindi o verso il bosco o verso i loro compagni a piedi che si stavano muovendo verso le forze inglesi. Quindi questa divisione di soldati appiedati viene investita dai cavalieri spaventati di ritorno dalla loro missione, dalla loro carica fallita. In questo modo quindi abbiamo la divisione francese che va a collidere con i loro omologhi inglesi. Sono molti di più, ma gli inglesi questo lo sanno e sono pronti ad accoglierli. All'inizio gli inglesi fanno un passo indietro per evitare di essere investiti da questa ondata di uomini e i francesi vengono di fatto incolonnate in tre piccoli gruppi. A questo punto gli arcieri inglesi sono pronti a fare la loro parte. Ormai hanno finito le frecce, lasciano tutto per terra, prendono mazze, spade, pugnali e aggrediscono ai lati gli uomini d'arme francese. Ora, un soldato in armatura completa sa che ha tutte le possibilità del mondo contro un poveraccio armato solo di un pugnale. Il problema è, per loro è questo, gli arcieri inglesi iniziano ad aggredire i soldati francesi a gruppi di 5 contro 1, attaccandoli di sorpresa appunto sui lati dello schieramento, ed è una mattanza. Un cronista dell'epoca dice che man mano che la battaglia va avanti, le pile di corpi di uomini caduti vanno a costituire dei veri e propri muri, che i soldati devono arrampicarci sopra per superarli. Naturalmente è un'esagerazione, ma ci dà l'idea di quanto possa essere cruenta una battaglia del genere. Lo scontro va avanti, ma alla fine i francesi decidono di fare qualcosa che tatticamente è una sconfitta. Inviano una seconda ondata di uomini a piedi e questi uomini non fanno nient'altro che continuare ad accalcarsi, a spingere i loro compagni davanti, e non riescono a portare alcun tipo d'aiuto. Alla fine gli arcieri e gli uomini d'arma inglese riescono a fare una vera e propria mattanza e i francesi piano piano devono ritirarsi. Viene a costituirsi da parte francese un'ultima schiera di cavalieri che minaccia una carica. Nel frattempo molti dei loro compagni sono stati fatti prigionieri dagli inglesi. Quando sei fatto prigioniero, di fatto devi toglierti il bacinetto, toglierti l'elmo, cedere il tuo guanto per accettare la sconfitta e dichiarare la resa. Verrai quindi condotto nelle retrovie, perché era molto più utile catturare un uomo d'arme piuttosto che appunto eliminarlo sul luogo, perché poteva letteralmente riempirti di denaro, riempirti di risorse. Quindi fare la guerra era molto più utile a catturare anziché eliminare l'avversario. C'è un problema però. Ti piacciono i battesimi? Sei stato a qualche battesimo di recente? Quel giorno un nobile francese era stato a un battesimo ed era arrivato in ritardo per la battaglia. Il duca di Brabante aveva portato con sé 600 dei suoi cavalieri e questo francese, questo capitano, questo duca francese, quando vede la battaglia che sta volgendo al peggio, prende iniziativa e carica anche lui gli inglesi. Naturalmente non ha successo. I suoi uomini sono volti in fuga e il duca è buttato giù da cavallo e catturato. Nel frattempo ti ho detto che la battaglia ha avuto luogo vicino al villaggio di Azincourt e il castellano, il signore del castello, vedendo la gran battaglia che si teneva, ha una brillante idea e accoglie i suoi contadini più arrabbiati, li arma di forconi e va non tanto in battaglia quanto a saccheggiare l'accampamento inglese. Riesce addirittura a rubare alcune corone che Enrico V si era portato dietro dall'Inghilterra e Enrico quindi dà un ordine che è letteralmente drastico, sanguinario. Dato che i francesi minacciano un'altra carica, la terza schiera infatti si era ricomposta, e questi contadini stanno facendo un macello nelle retrovie, decide di far sgozzare sul posto tutti i prigionieri. È qualcosa che però non viene accettato facilmente. Infatti i suoi sottoposti ritenevano che il re si stesse impicciando di una questione privata. Nel momento in cui io catturo un prigioniero, quel prigioniero diventa mio vassallo e mio protetto. Infatti non avrebbe alcun senso catturare se poi si potesse venire eliminati così facilmente. Cosa deve fare allora il re? Deve chiedere a un suo scudiero di radunare 200 arcieri e di compiere quello che di fatto coloro che avevano catturato non volevano fare, quindi iniziare a eliminare i prigionieri. Molti perdono la vita in questo modo. I più nobili e i più ricchi naturalmente vengono risparmiati e il re ritira l'ordine quando finalmente i contadini francesi sono messi in fuga e la terza schiera francese invece inizia a ritirarsi. È signore della battaglia, ha vinto, nonostante fossero in numero nettamente inferiore. A risultare vincente è stata appunto la nostra arma, l'arco lungo fatto della pianta del tasso, che appunto ha salvato gli inglesi da una sconfitta certa. Il 29 dello stesso mese, il 29 ottobre, dal porto di Calais, il re partirà per l'Inghilterra portandosi dietro 2000 prigionieri, che poi saranno venduti, o meglio, riscattati con lauti compensi. Come mai la battaglia porta questo nome? Nelle mie ricerche è emerso che quel giorno vi erano presenti alcuni, possiamo chiamarli arbitri, come gli arbitri delle partite di calcio. C'erano infatti degli alfieri. Gli alfieri potevano essere appunto questi arbitri degli scontri e erano super partes, quindi c'erano alfieri inglesi, alfieri tedeschi, alfieri inglesi e alfieri francesi che osservando la battaglia alla fine erano pronti a dare il verdetto. E gli alfieri francesi devono ammettere che quella inglese è una vittoria totale e viene scelto il nome della battaglia. All'epoca si chiamava Agincourt, oggi si chiama Azincourt e questo è il nome dello scontro che viene tuttora ricordato e verrà appunto reso eterno dal discorso di San Crispino che William Shakespeare attribuirà appunto al sovrano inglese. Sono rimasto un attimino sconvolto da tutta questa quantità di morti. Non me l'aspettavo, nel senso che siamo passati da una persona avvelenata da una crostata di un frutto che ha scaldato i mirtilli a una che ha masticato dei semi a un mucchio di cadaveri che si lanciano contro i pali. C'è da dire che gli inglesi portano qualche centinaio tra vittime e feriti, mentre per i francesi è una vera e propria carneficina, si parla di migliaia di morti. E la cosa più umiliante è che questi cavalieri, quindi la cui educazione era costata a fior di quattrini e che dalla nascita erano abituati a combattere, di fatto avevano perso la vita per colpa dei paesani, quindi per loro qualcosa di estremamente umiliante. E nei film di solito ci viene fatto vedere queste spade folgoranti che perforano le armature come se fossero burro, invece naturalmente non andava così. Nello scontro ravvicinato questi gruppi di arcieri cosa dovevano usare? Dei pugnali, delle spade e colpire o nel caso di un bacinetto, quindi che lasciava libero il volto, colpire al volto, oppure se venivano indossati elmi con una visiera, infilare lo stiletto all'interno delle feritoie della visiera, oppure ancora usando questi pugnali colpire l'armatura lì dove c'era la giuntura delle gambe, quindi all'inguine oppure delle ascelle, perché altrimenti con quelle armi non potevi perforare appunto la corazza d'acciaio. Ok. Abbiamo peggiorato la situazione di cose cruente. Assolutamente, assolutamente. Ci sta. Allora, comunque, dicevamo appunto l'importanza dell'arco. Sì, fondamentale. Il legno di tasso era usatissimo per fare archi. Oggi è usato tuttora per produrre archi, ma anche strumenti musicali. Comunque è un legno pregiato. Perché è molto elastico, è molto resistente ed è pesante, quindi è un ottimo legno per queste lavorazioni e resiste anche molto bene all'umidità. È molto resistente anche proprio a livello chimico della degradazione perché è impregnato di fatto di tassina. La tassina è un alcaloide, quindi stessa categoria di sostanze come abbiamo visto per la belladonna. Gli alcaloidi sono tutte quelle sostanze chimiche prodotte dalle piante che interagiscono con il sistema nervoso degli animali. La tassina è proprio quella che si chiama tassina perché è stata ritrovata nel tasso. Non è sempre ben chiaro se sia prodotta solo dalla pianta o anche da dei funghi che crescono all'interno del tessuto vascolare, quindi i vasi che portano la linfa della pianta. Questi funghi che vengono definiti endofitici crescono appunto all'interno di questi vasi e pare che producano anche loro questa tossina. Perché il legno è impregnato di questa tossina? Perché appunto serve alla pianta ad evitare che il legno venga degradato da eventuali batteri o funghi che si nutrono del legno, in natura è pieno. Questo consente anche, unito al fatto che il tasso genera facilmente o può generare al bisogno nuovi fusti dalla base, deriva il fatto che è una pianta molto longeva, perché il legno è molto resistente alla degradazione, può rigenerarsi facilmente. Abbiamo addirittura in Scozia, si stima che ci sia un albero di tasso che proprio nel caso in cui si è più parsimoniosi a 1500 anni, ma si stima che abbia tra i 2000 e i 3000 anni, quindi è veramente molto longevo. Quindi la tossicità come strumento per allungarsi la vita? Esatto, cioè di fatto gli alcaloidi, nella belladonna abbiamo visto la belladonnina eccetera, la scopolamina, tutte quelle sostanze che avevamo citato, però di fatto di per sé anche la caffeina per esempio ha proprio uno scopo protettivo per la pianta, perché un animale erbivoro che si nutre di foglie di pianta di caffè probabilmente prima o poi qualcosa gli succede. Sì. Allo stesso modo la tassina protegge il tasso, tutte le parti della pianta sono tossiche tranne gli arilli, che lo ripeto sono quegli involucri rossi che avvolgono i semi, che vengono mangiati dagli uccelli che poi disperdono i semi, quindi diffondono i semi che poi produrranno nuove piante di tasso, protegge appunto la pianta dall'essere mangiata, brucata o che il legno sia consumato da parte di organismi che sono in grado di farlo. Quindi uno strumento difensivo, diciamo. Esatto, è uno strumento difensivo. Poi alcuni alcaloidi per noi, caffeina, THC eccetera, e noi li abbiamo scoperti e abbiamo detto sai cosa? Sì, protegge la pianta, ma noi ci dà la botta, quindi ci siamo messi a coltivare. Di fatto in realtà botanicamente è comunque un successo, perché le piante che noi coltiviamo per gli alcaloidi che producono, di per sé la pianta sta tenendo il suo scopo, nel senso ci hanno convinto a coltivarle, quindi certo. È di successo. Infatti io sono fautore della teoria per cui noi in realtà siamo schiavi del grano, che esatto. Da sempre ci ha convinti a portarlo in tutto il mondo. Cioè noi siamo convinti di soggiogare le piante, ma in realtà sono loro la specie dominante del pianeta. Cioè tra i due, nel senso, le piante senza umani ci stanno bene lo stesso, noi senza piante sì. Un po' meno, ok. Allo stesso modo, come anche abbiamo visto per la belladonna e per il ricino, cioè queste sostanze attive su di noi hanno degli usi utili, è stato sintetizzato il taxolo, che è di fatto una molecola che è stata isolata negli anni 60 dalla corteccia del tasso del Pacifico, in realtà, che è Taxus non baccata ma brevifoglia, perché ha le foglie più corte. Giustamente, giustamente. E viene utilizzato, non sono ben sicuro se, non essendo medico, non sono ben sicuro se sia usato ancora oggi o quanto sia utilizzato, nella lotta contro il cancro, in particolare cancro a ovaie, seno, pancreas, polmoni, prostata e vescica, quindi proprio. Perché di fatto la tassina, poi utilizzata per il taxolo, cosa fa? Blocca la mitosi, quindi la divisione cellulare, quindi nel momento in cui io riesco a utilizzarla contro delle cellule cancerose. Comunque le cellule cellule che hanno iniziato a riprodursi, esatto, in maniera fuori controllo, in termine, però di fatto contro le cellule che sono di fatto il cancro, ne evito la divisione, quindi riesco a contenerlo e poi a sconfiggerlo, ok? Oggi il tasso, come dicevo all'inizio, che è una pianta molto bella, viene utilizzato principalmente, in realtà ai più è noto come pianta ornamentale, quindi usata non in virtù della sua produzione di materie prime, ma per la produzione di ossigeno, bellezza, ombra, eccetera. È molto utilizzato nell'arte topiaria, quindi troviamo anche un sacco di castelli medievali, ville storiche, eccetera, con siepi di tasso potato in tutte le varie forme possibili, e sono state selezionate anche tassi a portamento colonnare o addirittura con bacche gialle. Quindi quando passeggiando troveremo una conifera, quindi che ha queste foglie che sembrano degli aghi, molto bella, che però non ha le bacche rosse ma le bacche gialle, ci verrà in mente che è il tasso con le bacche gialle. E noi li assaggiamo assolutamente. Mentre quello con le bacche rosse, me ne posso fare una buffata? Neanche. Okay. Perché, ok, l'arillo non dovrebbe essere velenoso, ma io non ci scommetto. Noi di Insala Piante decliniamo ogni responsabilità sulla vostra scelta di ingerire bacche di tasso, mettiamola così. E proprio in virtù della sua longevità e della sua capacità di rigenerarsi, ha sempre avuto molti risvolti culturali anche nelle culture pagane pre-romane e pre-cristiane. E quindi veniva spesso piantato anche nei luoghi di sepoltura delle persone, anche perché, suppongo, essendo molto ampio, comunque anche un albero che fornisce ombra, sicuramente è riposante come aspetto. Quando vediamo un tasso adulto è bello, cioè ci verrebbe voglia di riposarsi sotto, se possiamo lo facciamo. Ed è proprio per questo che, essendo molto usato nei cimiteri, ha assunto anche in italiano il nome di albero della morte. Però mentre alcuni dicono è un albero della morte perché se mi ci addormento sotto schiatto, non è vero, nel senso che è un'altra fake news che siamo pronti esatto. A debancare. Albero della morte perché semplicemente veniva spesso usato nei cimiteri e quindi è associato a questo. È chiaro, però è chiaro. Porello, lui, a meno che non mi metto a mangiarmelo, non mi fa niente. Anzi, certo. Quindi possiamo dire che è molto utilizzato, anche se non sbaglio, in Inghilterra, nei cimiteri, esatto, come appunto pianta esatto, ornamentale. Sì. Molto interessante. Questo mi fa arrivare alla nostra conclusione, potremmo incamminarci appunto in questa direzione. Possiamo dire infatti che l'albero è conosciuto, come altre piante che abbiamo citato, fin dall'antichità. In particolare Giulio Cesare, nel suo De Bello Gallico, ci cita un evento avvenuto tra il 54 e il 53 a.C. Infatti un certo Catovolco, capo di una tribù belga degli Eburoni, avrebbe preso le armi contro i romani in una rivolta, ma essendo stato sconfitto, anziché arrendersi, preferisce togliersi la vita appunto utilizzando l'estratto ricavato dal tasso, quindi come pozione velenosa appunto. Un altro autore romano invece, Plinio il Vecchio, ci cita qualcosa di altrettanto interessante. Dei vasi fatti di legno di tasso, sarebbero stati utilizzati per trasportare del vino e i malcapitati avventori della locanda oppure della villa romana dove sarebbero stati appunto offerti questi vasi avrebbero trovato una triste fine a causa appunto dell'intossicazione da tasso. E leggevo anche che il sintomo più eclatante di intossicazione da tasso è la morte, quindi beh, molto indicativo. Molto indicativo. Ci sono anche altri autori che ci parlano di questa pianta. Siamo nel 1240 e un certo Bartolomeo Anglico, scrittore inglese nonché frate monaco francescano, scrive in una sua opera enciclopedica in 19 libri, il De proprietatibus rebus, sulla proprietà delle cose, che il tasso appunto è una pianta molto molto velenosa e tossica, quindi era una nozione già nota all'epoca sicuramente. Abbiamo già detto di come in Inghilterra questo è noto come albero dei cimiteri e una teoria affascinante, sebbene non comprovata, quindi la raccontiamo come aneddoto, vuole che, dato che la pianta veniva utilizzata dai pagani nei loro riti, quando i romani, durante appunto la loro opera di romanizzazione del territorio, nonché durante già il periodo cristiano, officiavano i loro riti appunto legati alla chiesa, questi avvenissero al di sotto degli alberi di tasso, quasi come fosse un modo per accattivarsi la simpatia dei pagani, che vedevano associato quindi il loro albero, la loro pianta sacra, al nuovo culto che i romani provavano appunto a diffondere nel territorio. C'è anche una poesia interessante della metà dell'Ottocento di un certo Lord Alfred Tennyson. I primi due versi vale la pena forse leggerli, li ho tradotti alla bella e meglio in italiano. Le tue fibre cingono un capo senza sogni, le tue radici sono avvolte attorno alle ossa. Appunto sta parlando del tasso utilizzato nei cimiteri. E nel villaggio di Selborne nel 1990 un devastante acquazzone, una tormenta appunto, fa sì che venga abbattuto un albero di tasso e gli abitanti del villaggio restano impressionati dal fatto che incastrate tra le radici di questa pianta appunto sono state trovate numerosi resti, numerose ossa appunto, perché quel territorio cimiteriale aveva visto la presenza di alberi di tasso che appunto avevano creato questo macabro, sebbene interessante, aneddoto. Molto bene, quindi con questo abbiamo detto tutto ciò che potevamo dire sul tasso, sebbene sicuramente qualcosa resta ancora da scoprire, da eviscerare. Io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questo è Insana Pianta. Vi aspettiamo sabato prossimo con un nuovo appuntamento con una nuova pianta. Buona serata. Ciao.